nasce anche come provocazione, se vuoi, anche, no? Quindi l'idea di proporre un festival in città sul lutto e sulla morte ha generato inizialmente qualche dubbio, qualche domanda, no? I soliti luoghi comuni, sai, la gente sentiva il rumore del lutto, mamma mia, insomma è sempre stato un po' presa tra il serio e il faceto. Poi però negli anni il rumore del lutto è cresciuto, noi siamo andati avanti ed è diventato a tutti gli effetti parte nel tessuto di questa città, ma non solo, perché poi il rumore del lutto negli anni ha raggiunto altre experience, tra virgolette, in altre città come Piacenza, Modena, Bologna, Venezia, Treviso, Pordenone. Ci sono tante città connesse al progetto e che hanno provato e stanno provando a ricreare questo mood nato a Parma. Come si articola questo mese? Con 81 eventi, tieni conto che il rumore del lutto nasce appunto nel 2007 con un singolo evento, in 15 anni sono diventati 81 e questi 81 eventi raccontano il progetto di questo festival mediante le diverse discipline artistiche, culturali e non solo, ci sono anche tanti convegni sul tema, ci sono davvero tante cose che posso invitare i radioascoltatori a scoprire sul nostro sito che è www.ilrumoredellutto.com. I luoghi e gli orari? Vari orari, alle 17 saremo presso la Casa della Musica per l'inaugurazione vera e propria con una performance di Samantha Stella e a seguire il concerto di Nero Kane. Per quanto riguarda le location, abbiamo tendenzialmente optato per delle location istituzionali, quindi tutti gli eventi si realizzano entro location appunto di un certo sistema all'interno della città, come magari appunto il Teatro Farnese, il Palazzo del Governatore, ma sono davvero tanti i luoghi che abbiamo preso per realizzare questo progetto. E quali discipline artistiche abbraccia? Dall'arte alla musica, teatro, alle performance, alla poesia, ci sono veramente tutte le arti possibili, sono in qualche modo presenti in questo festival. Davvero è possibile scoprirlo guardando il nostro programma. Com'è stata la scelta dei lavori? Lavoriamo al rumore del lutto durante tutto l'anno e incontriamo le proposte di chi è interessato a partecipare e le valiamo, abbiamo uno staff chiaramente e poi valutiamo quanto sia possibile coinvolgere queste realtà. Noi abbiamo creato negli anni una rete molto importante sia in città che fuori e questa rete è il vero segreto poi del festival perché ci permette chiaramente di attingere a energie che diversamente soltanto noi non potremmo avere, quindi si è creato proprio una rete talmente funzionale al progetto che ci permette davvero di andare con un certo agio incontro ad ogni edizione perché siamo tutti molto connessi. Quindicesima edizione de Il Rumore del Lutto a Parma dall'8 ottobre al 7 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Marco Pipitone. A presto! Grazie, grazie a voi. Salve. Con Lune Magrini di Marte Live per presentare la quinta edizione del Festival Suggestiva, musica pura per luoghi straordinari. A Roma, Parco Archeologico Appia Antica dal 15 al 24 ottobre 2021. Ben trovata. Ciao, ben trovato, ben trovati. Parliamone a chi non lo conoscesse. Cos'è? Suggestiva è un festival che va in viaggio per l'Italia a raccontare dei luoghi straordinari, per cui in ogni edizione del festival portiamo degli artisti, dei musicisti, degli storici, anche gli operatori che lavorano con i bambini, un sacco di gente a esprimere l'essenza di un luogo e raccontarla a chi partecipa. E quindi siamo stati ovunque, siamo stati su rocche in cima alla montagna, dentro a grotte e cunicoli sotterranei, in città abbandonate e in siti archeologici, appunto con Suggestiva e con tantissimi artisti straordinari. Come si articolerà questa quinta edizione?

straordinario a nostro avviso. Caio Mario Verruba è nato a Napoli nel 1923, di origini genitori calabresi, ha vissuto la propria infanzia in Calabria, dove all'interno della propria casa aveva una straordinaria biblioteca d'arte e dove lì ha cominciato a formare il proprio sguardo nello studio della storia dell'arte. Verruba nel dopoguerra sposa la causa del comunismo, lavora come redattore in una rivista del sindacato e lì comincia a avere i suoi approcci con le immagini fotografiche e sarà soltanto un caso che lo porterà ad avere in mano la sua prima macchina fotografica e a partire per quello che è il suo primo reportage che lo presenterà nella scena del fotogiornalismo, nel fotoreportage del 53 nella Spagna franchista. Verruba voleva viaggiare, lo dichiara più volte, io volevo viaggiare, volevo conoscere. Spinto da un ideale di libertà personale, lui era un freelance, uno che non ha mai voluto sposare cause con agenzie, tanto da rifiutare l'invito del suo amico Cartier Bresson successivamente ad entrare nella Magnum. E il suo ideale di libertà individuale lo riflette anche nel suo modo di fotografare, un'idea di libertà intesa come riscatto dell'umanità oppressa. Non a caso il suo primo reportage da antifascista qual era, sarà nella Spagna franchista dove la libertà doveva essere conquistata. Ecco, questo per avere un'idea dello spessore del personaggio. Poi torna da questo viaggio in Spagna fatto con il suo amico Plinio De Martis, torna in Italia, vende le prime foto al mondo, la straordinaria testata Il Mondo di Mario Cannunzio, e lì capisce che quel lavoro che vuole fare è il fotoreporter, è il fotografo. Quante opere saranno esposte e come è strutturata la mostra? Sono 116, è stata una lunga, faticosa, appassionante immersione in quelli che sono tutti i negativi di Verruba, parliamo di circa 60.000 negativi, oltre poi a 40.000 diapositive che l'Archivio Luce conserva dal 2017, e la mostra ha un punto di vista ben preciso, ha il punto di vista della fotografia di strada, perché Verruba era la fotografia che amava di più, la chiamava la fotografia stradale, perché diceva solo sulla strada riesco a vedere l'uomo così com'è. Lui è un fotografo dell'umanità, vuole rappresentare gli sguardi degli uomini e delle donne. È un fotografo che dice proprio quegli sguardi sono i documenti più preziosi. Quindi la mostra racconta questo punto di vista, questa angolatura precisa della fotografia di strada attraverso un percorso fatto di due momenti. Un primo momento che ha una narrazione, una continuità nella narrazione che ci fa entrare in quel mondo di Verruba in cui l'umanità di New York, di Mosca, della Polonia, della Cina, ma della sua Napoli, della Calabria, è un'unica umanità. Esce fuori un uomo nella sua interezza, non distinguiamo più gli uomini polacchi, le donne polacche, i bambini tedeschi piuttosto che quelli dei vicoli di Napoli. Quindi questo è questo primo momento della mostra. Una seconda parte, la mostra invece è dedicata a dei focus, abbiamo trovato nello scorrere negativi delle ricorrenze, che lui aveva quasi delle manie per fotografare alcuni soggetti, come ad esempio persone di spalle, come ad esempio gente che fotografo, oppure sguardi in macchina, a mio avviso straordinari, oppure persone che dormono. Ecco, questo è un po' il racconto che abbiamo voluto fare in questa mostra. Abbiamo seguito un filone nel vedere le fotografie di Verruba, abbiamo trovato delle premonizioni. All'interno dei suoi negativi e delle sue fotografie ci sono delle premonizioni di linguaggio fotografico, come se Verruba fosse veramente un precursore di linguaggi non ancora codificati, non ancora presenti, ma che avremmo trovato poi nella storia fotografica della fotografia solo successivamente nei grandi fotografi di strada americani o anglosassoni. Quindi un Verruba precursore di un linguaggio addirittura. Io invito tutti naturalmente a visitare questa mostra perché è un fotografo che noto, conosciuto negli ambienti, tra gli addetti ai lavori piuttosto che tra i suoi colleghi. Ad esempio nel catalogo della mostra abbiamo due saggi di due colleghi emeriti di Verruba, che quali Sano D'Amico e Giuliano Lucas insieme a Tatiana Agliani, che quasi sorprendendoci no, hanno parlato di un Verruba come veramente di un maestro. Sano D'Amico nella conferenza stampa mi ha fatto la domanda: chi è per lei Caio Mario Verruba? La prima cosa che ha detto: un maestro. Ecco, quello che vogliamo fare con questa mostra è dare a Garruba la giusta collocazione nella storia della fotografia italiana, internazionale, perché merita un posto di livello. L'idea sarebbe, no, che una persona vede una fotografia e dice, ecco, quella fotografia è di Caio Mario Garruba. La mostra fotografica Caio Mario Garruba, freelance sulla strada, a Roma, Palazzo Merulana, dal 9 ottobre al 28 novembre 2021. Un saluto e ringraziamento ad uno dei curatori, Emiliano Guidi. A presto! Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata a tutti quanti e a tutte quante. Con Pietro D'Attola, direttore artistico dell'undicesima edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off a Roma, Fortezza Est e Teatro Trastevere, dal 7 al 17 ottobre 2021. Ben trovato. Grazie Federico, salve a tutti. Per chi non la conoscesse, ne parliamo, spieghiamo cos'è Inventaria. È un festival che raccoglie il meglio del teatro off italiano, cioè del teatro indipendente, quello non sovvenzionato, quello più creativo se vogliamo, e noi lo facciamo tramite un bando che raccoglie ogni anno centinaia di adesioni. Noi selezioniamo una manciata, devo dire, veramente poche, e che rappresentano la più grande varietà possibile di linguaggi, di stili, di generi, di contenuti. E poi i nostri partner, cioè i teatri, le strutture sparse da tutta Italia, ciascuno seleziona il proprio vincitore, quindi offrendo alla compagnia la presenza in stagione, una residenza o altri premi del genere. Quest'anno come si caratterizza? Apriamo la stagione teatrale della capitale e lo facciamo in due spazi, Fortezza Est a Torpignattara e al Teatro Trastevere, a Trastevere. E in due blocchi proprio separati di spettacoli, 7, 8 e 9 a Fortezza Est e dal 13 al 17 a Trastevere. Ci parli un po' dei lavori che presenterete? Il festival inizia, come ormai è tradizione, con un nostro spettacolo fuori concorso, in questo caso Il Viaggio, uno spettacolo sui migranti, del passato e del presente, e poi prosegue il 9 ottobre con The Show, che è uno spettacolo di narrazione molto divertente su un'esperienza di wrestling femminile. Poi passiamo dal 13 ottobre al Teatro del Trastevere con Allucam, che è uno spettacolo di prosa tradizionale napoletana, è la storia di due femminelli che, sempre emarginati, hanno un riscatto con un atto di eroismo. Poi Scomodi, uno spettacolo di improvvisazione teatrale, quindi stand-up poetry, che è uno spettacolo che mescola la stand-up comedy e con la poesia, molto originale. Poi Il mito della bellezza, sulla condizione femminile declinata nel senso di cosa, come e perché vengono costrette le donne a fare in nome della bellezza. E infine chiudiamo con Lei Lear, che è uno spettacolo di sperimentale che mescola le atmosfere shakespeariane con i personaggi shakespeariani, in particolare le due sorelle malvagie di Lei Lear si trovano in un non luogo in attesa, insomma, di conoscere il proprio destino. Com'è stata la scelta di questi lavori? Il festival si concentra sulla drammaturgia contemporanea. All'interno delle proposte noi selezioniamo quelle che ovviamente ci colpiscono, ma che rappresentano anche la maggior varietà di linguaggi possibile. Quindi appunto quest'anno abbiamo teatro civile, teatro di narrazione, stand-up, poesia, teatro sperimentale, prosa tradizionale. Il nostro obiettivo è presentare serate tutte diverse tra loro. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Tutto il programma si trova su www.dovecomequando.net e ovviamente anche sull'evento Facebook Inventaria 2021. Per informazioni è possibile scrivere a inventaria@dovecomequando.net. Undicesima edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off a Roma, a Fortezza Est e Teatro Trastevere, dal 7 al 17 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro D'Attola. A presto! A presto, grazie, grazie mille. Con Manuela Kusterman, direttrice artistica del Teatro Vascello, per presentare Curiosità Letterarie a Roma, Teatro Vascello, il giovedì dal 7 ottobre al 16 dicembre 2021. Ben trovata. Grazie, ben trovati a tutti voi. Grazie. Ci parli di questo progetto?

Siamo all'agenda della settimana teatrale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Ciao a tutti, buon pomeriggio. Andiamo a vedere un po' che cosa c'è questa settimana a teatro. Andiamo a cominciare, come capita di radio in realtà, di cominciare con il teatro Lo Spazio Rossellini, che 15, 16, 17 ottobre presenta un lavoro dal titolo Rebus, racconti brevi e straordinari, la regia di Annalita Colucci con Roberto Andolfi. Sono molti gli attori in scena ed è un viaggio ispirato a storie di varia provenienza che inanella narrazioni serie, divertenti, astratte e misteriose. È un progetto che nasce da un laboratorio appunto dedicato al teatro di figura nell'ambito del progetto Per un teatro necessario dell'Università La Sapienza di Roma. Annalita Colucci e Roberto Andolfi di Il Loco Teatro presentano quindi la fase finale di questo lavoro. Per ciò che riguarda invece il Teatro Basilica, andiamo a vedere ancora per questa sera alle ore 20 la Galleria Sala 1, in realtà antistante l'ingresso del Teatro Basilica, un progetto in 12 appuntamenti di Riccardo Caporossi che si chiama Un giorno, un mese, un anno, 12 racconti di Luigi Pirandello. Poi Paradox Teatro al Teatro Villa Panfili sabato 16 ottobre presenta Ubure di Alfred Jarry con la regia di Diane Munsib, a quanto pare un lavoro dedicato al teatro di figura. L'Ubure di Jarry, che è menzionato in prima assoluta con questa regia, è un'opera scritta a fine 800 ma molto molto attuale. L'egoismo, l'avidità degli esseri umani sono sempre gli stessi dalle fine dell'800 fino ad oggi. Per ciò che riguarda invece al Teatro Quirino, va in scena Letizia Vallaguerra, La suora, la sposa e la puttana, ideato e diretto da Adriano Evangelisti dal 12 al 14 ottobre, appunto, il Teatro Quirino, con questo testo di Agnese Fallongo, che sarà anche in scena insieme a Tiziano Caputo. Si tratta di un lavoro su tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile filo rosso che le unisce, uno stesso nome, Letizia appunto, un unico destino, e questo racconto tragicomico di tenerezza e verità. Poi al Teatro Sala Umberto, per andare a vedere il lavoro scritto e diretto da Emilia Martinelli, Terremoto dentro, della compagnia Fuori Contesto, con in scena la nostra cara vecchia amica del radioteatro, che è Tiziana Scrocca. Teatro Sala Umberto appunto, 12-13 ottobre, quindi questa sera e domani alle ore 21 al Teatro Sala Umberto. Si tratta appunto di un lavoro dedicato appunto, come dice il titolo, al terremoto. Il terremoto smuove, la terra trema, ma poi si ricompone e si va avanti. C'è una donna che ci canta il suo papà Vesuvio, il fuoco di lui, la smania di campare, di andare oltre i limiti, quindi un racconto che ha a che vedere con il mare, con quella grande, bellissima, meravigliosa zona che è attorno al Golfo di Napoli. Al Teatro Carrozzeria Notte con Anna Basti e Chiara Caimmi, che presentano questo il loro ultimo lavoro, What is a Fancy Word for Ending, un work in progress delle due coreografe e danzatrici, che presentano questo lavoro sulla fragilità, sul fallimento, sullo spaesamento, condizioni che rimangono sepolte come un sottofondo sommerso nel rumore di mille nuovi inizi. Quanti ultimi baci hai dato? Quanti scatoloni da trasloco hai imballato? Quanti biglietti solo andata hai comprato? Questo alla base di questo lavoro. 16-17 ottobre, Teatro Carrozzeria Notte, What is a Fancy Word for Ending. Per ciò che riguarda poi invece il Teatro di Roma, andremo il 17 ottobre al Teatro Torlonia per andare a vedere la Butterfly, liberamente tratto dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini, con il progetto La realizzazione di King Caleri con Yan Mei Yang e Marco Mazzoni. Quindi un lavoro molto ibrido, ripensa al capolavoro dell'opera del maestro Puccini all'interno di un contesto di, sicuramente, tanto di King Caleri, di danza contemporanea. Non si dice forse che sfiorando le ali di una farfalla la si condanna a morte? Andiamo a vedere quindi alle ore 17 del 17 ottobre al Teatro Torlonia questo Butterfly. Al Teatro India, 14 e 15 ottobre, andiamo a vedere Abitare il ritorno, echi e visioni di donne, uomini e oggetti, a cura di Fabiana Iacozzilli, che all'interno del progetto Incroci presenta questo lavoro. Sono tre giorni di lavoro dedicati al ruolo delle arti performative dal vivo per una comunità interculturale, quindi la tappa conclusiva di questo progetto è l'iniziativa rivolta a educatori, artisti, operatori culturali, sociali, mediatori, docenti, studenti, istituzioni varie e cittadini interessati, ed è presentato da Asinitas che è in collaborazione con Antonio D'Amore e Luca Lotano, qui al laboratorio a cui hanno partecipato le studentesse e gli studenti delle scuole di italiano di Asinida, sono un gruppo misto composto da italiani e stranieri. Il tema è quello della memoria, delle origini, le radici, la carta e la domanda: da dove vengo? Al centro di questo lavoro di Fabiana Iacozzilli, che è stata portata avanti insieme ai partecipanti, appunto provenienti da varie parti del mondo. Al Teatro Argentina invece debutta Avremo ancora l'occasione di ballare insieme in prima nazionale con la coproduzione Teatro di Roma e sostegno di REF, Roma Europa Festival, De Florian Tagliarini dal 12 al 24 ottobre. Dopo aver affrontato Il Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni e dopo questo confronto con l'immaginario cinematografico, questa volta appunto attingono all'opera del maestro Fellini. Ginger e Fred, una frase che Amelia dice a Pippo alla fine del film: non credo che avremo ancora l'occasione di ballare insieme. E questo è il fondo del lavoro che vedrà appunto la co-creazione e l'interpretazione di Francesco Alberici, Martina Badeluzzi, Monica De Muro e Emanuele Valenti, con appunto tre generazioni, tre tempi, tre coppie che ballano insieme avanti e indietro nel tempo, come in uno dei sogni resi immortali del grande regista Fellini, ma anche una ballata dedicata agli artisti, al loro desiderio di essere altro, di giocare per tutta la vita. Questo c'è all'interno del Ginger e Fred di De Florian Tagliarini. Avremo ancora l'occasione di ballare insieme, Teatro Argentina, 12-24 ottobre. Andiamo anche al Roma Europa Festival per soprattutto Dancing Days questa settimana, con Fanny Softepty and The Opposite, Conor Schumacher, che presenta al Teatro Vascello 13-14 ottobre la sua creazione coreografica, che cerca di tenere insieme nei sei performer in un allenamento di alta intensità per il cervello e per il corpo, una prova di resistenza che trasforma la vita in un'esperienza coreografica, musicale e jazz. Questo al Teatro Vascello nel 13 e 14 ottobre con Conor Schumacher. Poi ancora, sempre per Dancing Days, questa volta al Mattatoio, 15 ottobre, in doppia replica, 18 e 21, Victor Czernicki con PLI. Il coreografo e danzatore Czernicki afferma di essersi ispirato ai principi fisici del filosofo Leibniz. Questo teorico però, insomma, dialoga con le 22 serie da conferenza che abitano la scena del suo spettacolo. In che modo lo farà? In che modo queste serie possono costruire l'architettura di un intero universo? Lo andremo a vedere il 15 ottobre al Mattatoio alle 18 e alle 21. Ancora per Dancing Days, 15-16 ottobre, Quel che resta è la volta di Simona Bertozzi, danzatrice e coreografa ormai internazionale, che presenta in prima nazionale questo suo lavoro insieme a un'altra danzatrice, Marta Ciappina, che cerca di esprimersi all'interno dello spazio delle caratteristiche ambientali che possano generare delle visioni, mutare la densità dell'aria e generare delle capacità inattese di attraversamento, quindi dei modi inediti dello stare. Questo è quello che andremo a vedere 15 e 16 ottobre al Mattatoio. Seguiranno ultime due cose che andiamo a segnalare: 16 e 17 ottobre in prima nazionale Ersan Montag di Ghent, The Living, Teatro Vascello, 17 e 21, due orari per il 16 e il 17 di ottobre, entrambi i giorni in doppia replica. Questo lavoro che ha a che fare con l'intimità di una fine qualsiasi che si manifesta davanti agli occhi dello spettatore. Una donna rientra in casa e inizia il suo lento percorso verso il suicidio. Ma se il tempo scorresse diversamente, se fosse possibile tornare indietro? Ecco, questo è quello che andremo a vedere con The Living. Ad abitare i panni della donna sono le gemelle Doris e Nathalie Bokongonkumu, esponenti della scena hip hop belga. Quindi questo gruppo, Ersan Montag di Ghent, è quello che andremo a vedere il 16-17 ottobre al Teatro Vascello. Concludiamo ancora con Dancing Days, 16-17 ottobre al Mattatoio alle ore 21, domenica però alle 19, Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi con Ara Ara. Questo duo, costituito da appunto i due danzatori, prosegue l'indagine sul potere a partire dal simbolo della bandiera. Scivolate giù dai loro drappi in modo costante, simbologie araldiche che prendono peso e forma. Quindi andiamo a vedere Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi al Mattatoio 16-17 ed andiamo a teatro per tutta la settimana. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.